ti ho pensato non fossi importante. Ma mi ero perso e penso che se il coraggio è un passo, questa sera danzo prima che l'idea diventi polvere, prima che il coraggio cambi idea. Ho imparato a spese mie che fingere salverà solo chi non sa vivere. Chi non ha la forza di aprirsi, chi non vede luce nei graffi, chi frequenta solo rimorsi. Chi non ha la meta negli occhi, chi si finge casa ci torna, ma sono stata a casa troppi giorni. Non trovi parcheggio, dov'è la novità? Che siamo tutti le insegne contrari di un viaggio. Ma quando capita di guardarsi negli occhi e sentirsi a disagio, cambiare il movimento, che se il coraggio è un passo, questa sera danzo prima che l'idea diventi polvere, prima che il coraggio cambi idea. L'entusiasmo mio non sa più fingere. Vieni qua, lascia chi non sa ridere di sé. So parlare bene, ma so tenere il tempo. Come la vita in genere, come fai tu? Ti soffrirà la fine, ma mangi ancora il meglio. Come la vita in genere, come Chi non ha la forza di aprirsi, chi non vede luce nei graffi, chi frequenta solo i morsi. Chi non ha una meta negli occhi, chi si finge casa ci torna, ma sono stata a casa troppi giorni. Sulle mani dai! So parlare bene, ma so tenere il tempo. Come la vita in genere, come ti soffrirà la fine, ma mangi ancora il meglio. Come la vita in genere, come non so parlare bene, ma so tenere il tempo. Come la vita in genere, come la vita in genere, ma mangi ancora il meglio. Come la vita in genere, come Grazie! To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la la. it's alright. Come to you, baby, you know you make it right. My blood pressure rising, yeah, yo, I'm getting high. I don't know why, I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over-possessive. Even all that I could give, best wishes on how we live. Just us two, is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do. Everything will be fine. you are the bomb. It's all in your head. I've gotta find someone to love, cause I've been waiting for so long. I never felt this way before, so baby, stand by me. Keep on moving, keep on dancing, dancing to the beat. Jumping, yeah. I wanna party tonight.

It's a rainy day. coming into my life makes me feel good inside. I need a moment of ecstasy, feeling higher than high. Babe! This is the music I like. Woo! This is the music I like. This is the music I like. This is the music I like. This is the music I like. Alex è tornata a trovarci!